Europa 24. Benvenuti a Europa 24, parliamo con Draghi che a Strasburgo dice la ripresa prosegue ma i rischi sono aumentati di nuovo. La ripresa prosegue moderata ma i rischi sono di nuovo aumentati a causa delle incertezze sui mercati emergenti. Un quadro che però preoccupa e che con l'inflazione più bassa delle attese spingerà la Banca Centrale Europea ad agire a marzo, come già annunciato dal presidente Mario Draghi nell'ultima riunione del board e ribadito ieri davanti al Parlamento Europeo a Strasburgo. Rispetto a due mesi fa le condizioni economiche sono di nuovo cambiate e le dinamiche dell'inflazione sono più deboli. Per questo a marzo la BCE potrà rivedere la sua politica monetaria, così conferma Mario Draghi davanti all'Europarlamento a Strasburgo e spiega quali sono i rischi che rallentano la ripresa, sempre moderata, i timori sulle economie emergenti, la volatilità di mercati e materie prime, i rischi geopolitici. Poi ribadisce un concetto che in questo periodo sta a cuore a tanti: l'Europa deve essere unita. Molte sfide che abbiamo davanti hanno natura europea e richiedono una forte risposta europea, dice il numero uno della BCE, che sulle banche prende una posizione precisa. Le regole sul bail-in, il salvataggio degli istituti senza fondi pubblici, devono essere attuate in maniera coerente, così come è necessario un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora gli sviluppi sulla proposta anti-Brexit. Stare o non stare insieme, questo è il dilemma. Ricorre all'Amleto di Shakespeare il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per annunciare su Twitter la sua proposta, quella che dovrebbe ridisegnare l'appartenenza della Gran Bretagna all'Europa con l'obiettivo di scongiurare la Brexit, cioè la possibilità che Londra esca dall'Unione. Un'intesa che dovrà essere approvata ora dai 28 paesi al vertice del 18 e 19 febbraio, in modo da consentire ai sudditi britannici di votare per il referendum sulla Brexit a giugno. Tra i punti contenuti nella bozza c'è il potere di a disposizione dei parlamenti europei per bloccare norme comunitarie non gradite. Un cartellino rosso che potrebbe scattare quando un certo numero di parlamenti nazionali sono contrari ad una misura varata dalla Commissione. Altro capitolo, il freno d'emergenza alla concessione dei benefici previdenziali agli immigrati comunitari. Una sorta di salvaguardia che permette al Regno Unito, ma anche ad altri paesi europei, di frenare l'accesso al welfare nel caso in cui si dimostri che il sistema è sotto stress. Misura che, secondo Tusk, dovrà essere però sottoposta al vaglio degli altri 27 paesi europei. E ancora la possibilità del Regno Unito di restare fuori dai piani di maggiore integrazione europea. Mentre arriva il no alla proposta di Cameron di concedere un diritto di veto sulle decisioni dell'Eurozona anche ai paesi che non vi appartengono. Un'intesa che, secondo il premier britannico, porterà ad un cambio sostanziale nelle relazioni tra Londra e Bruxelles, anche se, dice, è necessario definire ancora alcuni dettagli in vista del vertice di febbraio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 ore. L'Italia è come la Polonia. Con la riforma della TV pubblica il governo sta compiendo un colpo di Stato. La Commissione europea deve intervenire. E quanto dirà domani, informa una nota, il presidente della Commissione Vigilanza Rai Roberto Fico in una conferenza stampa a Strasburgo durante la plenaria del Parlamento europeo. La Commissione europea valuterà entro giugno 2018 la necessità di emendare la direttiva sulla ristrutturazione e la risoluzione bancaria anche sulla base di un rapporto dell'Autorità bancaria europea sulla base dell'articolo 128 della stessa direttiva che definisce l'ampiezza e i tempi della verifica. Lo indica la portavoce del commissario ai mercati finanziari Vanessa Mock. La portavoce ha anche confermato ufficialmente che non ci sono piani per cambiare la direttiva adottata nel 2014 e che è stato chiaro per un anno e mezzo che i creditori sarebbero stati coinvolti nel bail-in per proteggere i contribuenti. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24, la prossima alle 21 durante Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet.